combinazione di mestieri autonomi integrati reciprocamente. Stesso artigiano, ma mestiere ci sono in più parti. Combinazione di mestiere autonomi integrati reciprocamente. Stesso artigiano, ma mestiere ci sono in più parti. Operai usa il proprio corpo come organo di tale operazione. Operaio usa il proprio corpo come organo di tale operazione. Manifattura eterogenea, congiunzione meccanica di prodotti indipendenti. Manifattura organica, serie di processi graduali. Manifattura eterogenea, congiunzione meccanica, prodotti indipendenti. Manifattura organica, serie di processi graduali. Il risultato del lavoro di uno diventa punto di partenza dell'altro. Il risultato del lavoro di uno diventa punto di partenza dell'altro. Unilateralità in perfezione, perfezione completezza. Unilateralità in perfezione, perfezione completezza. Gerarchia di forza lavoro influisce sui salari. Gerarchia di forza lavoro influisce sui salari. Anarchia produttiva e dispotismo aziendale sono alla base del capitalismo. Anarchia produttiva e dispotismo aziendale sono la base del capitalismo. Concorrenza all'unica autorità, concorrenza all'unica autorità.